Gentili signore e distinti signori, eccoci qua di nuovo per il secondo tempo di questo nostro concerto. La canzone porta il titolo di Bimbe Belle. Le parole dicono: bimbe belle facciamo all'amore, che è la cosa più bella del mondo. Quando... Non ti ricordi più come che sei fatto? Non mi ricordo più come che sei fatto. Chi non ama nel tempo giocondo, quando è vecchio lo prende, cioè gli capita qualche disgrazia, insomma. Ecco, però questa canzone andava benissimo fino a qualche anno fa, quando è comparsa una meravigliosa pastiglia che si chiama Viagra e che, diciamo così in termini generali, fa restare eternamente giovani e quindi fa fare anche noi un po' anziani l'amore anche dopo. Non fosse mai successo. Noi che abbiamo impiegato tutta la nostra gioventù a rincorrere ragazze di qua e di là appunto per la paura che quando diventassimo vecchi ci capitasse qualcosa, niente, adesso diventati vecchi, siamo stati da giovani degli arrampicatori, diventati vecchi con questa pillola, cominciamo di nuovo a correre dietro la grazia, insomma, tutta la nostra vita è stata un sesso, una noia, comunque ve la proponiamo lo stesso, signore e signori, bimbe belle! Thank you. adesso c'è una canzone un po' delicata, di cui le parole non si possono dire interamente, bisogna fare un po' una descrizione vaga. Il titolo della canzone è Il frate di Certosa e dice sostanzialmente che un bel giorno questo frate certosino, guardando tra le elemosine, aveva trovato un paolo, cioè una moneta che allora valeva abbastanza. Oggi vale poco, vale circa 2700 lire o un euro e qualche cosa. Convinto di essere ricco, si reca al convento delle monache lì vicino e incontra suora Bice che conosceva e chiede, insomma, dice: abbiamo un paolo, vogliamo divertirci, così giochiamo insieme, facciamo così e colà. Ma non sapeva il povero frate che le suore erano ben al corrente dei prezzi vigenti e ha detto: oh, ma con un paolo posso avuto da me, cosa vuoi da me? Dice: al limite facciamo un giochino un po' meno pesante, insomma. E il frate china la testa e dice: va bene, per un paolo mi farete un giochino un po' meno pesante. E la suora dice: meno pesante, ma almeno il vantaggio di essere fatto interamente a mano. Signore e signori, frate di Certosa. adesso ripeschiamo dalla tradizione i consigli che davano i padri o i nonni alle ragazzine che dovevano incontrarsi con il proprio innamorato. E dicevano: bionda, se era bionda, petenate, ecco, vuol dire pettinati insomma. E se il vecchio te la domanda, sì, cioè insomma, se il vecchio ti faceva una domanda un po' osè, beh, dighe di no o dighe di sì, e qui si trattava di guardare il richiedente, come era vestito, se poteva avere dei soldi, insomma, una lezione di, per le figlie bionde, di accompagnarsi bene per il prossimo resto della vita. Così una canzone bella da sentirsi, non molto importante, ma ve la facciamo sentire. Bionda petenati. Da anni un motivetto dedicato al neolaureato. Il neolaureato esce dall'università a calcioni nel di dietro, giusto perché viene immesso nella grigia vita, con questo canto: dottore, dottore, dottore del burro. Ecco, certo, va benissimo, ma non è questa l'intera canzone. L'intera canzone si chiama Il canto della mosca e dice: il canto della mosca, cioè questo insetto così fastidioso, quello che tu non vuoi, se impararlo vuoi, noi te lo insegneremo. Questi sono le nostre. Queste sono le nostre grazie, questi sono i nostri cuori. Queste sono le nostre grazie, e giù un calcione nel di dietro. Questi sono i nostri doni, e giù un pugno sulla schiena. Vai fuori dai portoni, tanto in coso, tanto in coso c'è già. Questa è la vera canzone. E poi tengo dottore, dottore, dottore del burro. Noi lo facciamo sentire interamente. Il canto della mosca.